di queste lotte alle persone, perché se oggi qui non c'è partecipazione da parte dei morconesi è perché la maggior parte dei morconesi pensa che noi siamo i soliti ambientalisti che non hanno nient'altro da fare che fare casino e organizzare lotte così che non portano a niente. Perché infatti stamattina proprio parlavo con delle persone che io ritengo anche di un certo livello culturale e mi dicono no, ma io sono, cioè tutto questo no tav, no triv, no, no qua, no là, mi sembra assurdo perché l'energia serve, il petrolio ci serve, le pale eoliche sono anche belle, noi siamo stati nel nord Europa, le hanno messe ovunque, sono anche nel mare, non danno fastidio a Sono nessuno. Qui, coreografiche. sì, qui fate casino perché cosa? Adesso che avevamo un'opportunità, la ritengono un'opportunità. Quindi, e sono persone anche di un certo livello culturale queste qua, no? Che dico io, almeno queste persone riusciranno a leggersi un articolo, oltre a sentire il TG1, il TG5, che trasmettono le notizie a proprio piacimento, o comunque perché gli è stato dettato in un certo modo. E questo fatto energia pulita, l'eolica, energia pulita, sono tutti convinti che quella sia energia pulita perché nessuno va oltre il problema, cioè va oltre quello che gli viene trasmesso dalla televisione. E quindi secondo me è importantissimo invece fare una campagna con degli elementi che vadano veramente dritti nel cervello delle persone, perché fino ad ora alle persone non è arrivato niente di tutto quello che pensiamo noi contro questo tipo di sistema qua. Al 95% delle persone io credo tutto questo non sia mai arrivato. Cioè qui i morconesi pensano che l'eolico sia una soluzione. Per i posti di lavoro, per non lo so che cosa pensano che ci sia di positivo. Perché altrimenti io non capisco perché la gente non partecipi, non si interessi. Non credo che agli abitanti di Morcone non interessi il paesaggio o il fatto che non ci sarà nessun ritorno economico per le persone del posto, ma soltanto per i soliti. Che possono essere gli amministratori oppure le solite multinazionali. Quindi secondo me bisogna veramente fare qualche cosa per far arrivare un messaggio che non sia soltanto filosofia.